6 di. Ascolta e rispondi. Di che cosa vi occupate? Ci occupiamo di moda. Come vi trovate a casa nostra? Ci troviamo bene. Dove vi sistemate? Ci sistemiamo in albergo. Quando vi presentate al direttore? Ci presentiamo al direttore domani. Perché vi fermate? Ci fermiamo per chiedere un'informazione. Che cosa vi mettete per la cerimonia? Ci mettiamo un abito da sera. A che ora vi alzate ogni giorno? Ci alziamo alle 7. Come vi chiamate? Ci chiamiamo Paolo e Maria.